Finalmente sta nenna sposaie, dopo essere un ricco cavone, dopo un anno pacetto e barone. Chi studiò che rogliere in campagna e lassava che se una mogliera, quando a casa tornava a sera, la trovava cantando così. Ritto, ritto, ai voglia di noi, voglia spia, ma la femme la vuole non la che lo fa. Ritto, ritto, ritto, ritto, ritto, ai voglia di noi, voglia spia, ma la femme la vuole non la che lo fa.